magari dell'acqua per studiare poi magari una canoa migliore per quel tracciato, quindi c'è stato uno studio importante dietro. Quello di Londra particolarmente ha una grande portata d'acqua che però è lenta perché ci sono tanti ritorni e 2-3 salti davvero impegnativi. È molto fisico perché appunto con l'acqua lenta bisogna spingere, diciamo, un po' di più con le braccia. E questo è un bene perché, diciamo, sono conosciuto nel mondo della canoa per essere uno di quelli un po' meno tecnici e un po' più fisici, quindi è un buon punto a mio vantaggio. Ecco, proprio dal punto di vista della preparazione fisica, come si lavora, come si mette a punto il motore in vista di un appuntamento così importante, ma in generale per affrontare bene questa disciplina? Ma in generale io comincio verso novembre la preparazione, i primi mesi qui, diciamo, in Italia, poi vado a svernare al caldo per i mesi più freddi, gennaio e febbraio, di solito sono in Australia ad allenarmi, marzo rientro e dopo comincia la stagione. La parte fisica soprattutto la faccio in palestra nei mesi appunto invernali, perché siamo tra virgolette lontani dalle gare ed è il momento per costruire appunto il motore. Poi più ci si avvicina alle gare, più bisogna trasformare questa forza costruita in palestra nell'esprimerla poi nella pagaiata. Alla fine la differenza, diciamo un po' semplicemente, è quanto uno è bravo ad esprimere i chili che sposta in palestra nella pagaia, quindi una certa sensibilità. Poi ogni acqua ha le sue caratteristiche, bisogna essere capaci di leggere appunto l'acqua, ci sono tante cose, tante piccole cose che poi fanno il risultato. Bene, intanto quello che noi ti auguriamo è soprattutto quello di coronare il sogno olimpico, ma l'imbocca al lupo chiaramente vale anche e soprattutto per quando lascerai la pagaia e continuerai a costruire la tua carriera e la tua vita. Beh, crepi il lupo di vecchiaia perché sono un forestale e grazie mille. Grazie a Daniele Molmenti per essere stato nostro ospite. Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a Bordo Campo. A Bordo Campo. Ancora il grande golf protagonista a Bordo Campo. Siamo alla vigilia dell'Open d'Italia che scatterà il 9 giugno a Torino. E allora, nostro ospite, il più grande talento italiano di golf, benvenuto a Bordo Campo, Matteo Manassero. Grazie, ciao a tutti. Allora Matteo, reduce da un settimo posto importante al PGA Championship in Inghilterra, un settimo posto che forse poteva essere anche qualcosa in più, Matteo, a mente fredda, sì. più rimpianto, più comunque la soddisfazione per essere stato ancora una volta protagonista, ancora una volta al vertice. È stata più la soddisfazione di aver giocato 3 giorni, un ottimo golf, essere stato in testa alla classifica, in una situazione, in una gara in mezzo a tanti grandi campioni, una gara tra le più importanti che gioco in tutto l'anno, quindi la soddisfazione è stata tanta. E ovviamente l'ultimo giro mi aspettavo di fare di più anche io, però è stata un'ottima esperienza. Senti un po' ancora un certo timore reverenziale rispetto ai grandissimi del circuito, oppure quando li vedi sul green dici quasi quasi a questo gli faccio uno scherzetto? Beh, adesso mi sto ambientando in questo mondo, in questa situazione, e adesso sto giocando, sono numero 30 ogni volta, gioco sempre di più con giocatori sempre più forti. Mi è capitato, ero a lottare fino alla fine per la vittoria con il primo e il secondo al mondo, quindi ovviamente sono esperienze che si fanno. All'inizio non posso dire che ero tranquillissimo, perché non è vero, sono esperienze che si fanno e la prossima volta le affronterò meglio. Giocherò meglio. Magari anche per questi grandi campioni come Luke Donald, che è il nuovo numero uno al mondo, diventa complicato, no? Affrontare un talento emergente come te, di cui magari ancora non si conoscono bene i segreti, i colpi a sorpresa, ma anche le reazioni psicologiche che pesano e come in questo sport. Sì, beh, assolutamente, certo, però è chiaro che sono giocatori di grande esperienza e con un grande gioco, quindi sono difficili da battere. Però chiaro che se avessi giocato un golf migliore, se fossi riuscito a fare tutto quello che avrei voluto, avrei potuto batterli, come ero in testa dopo 3 giorni, avrei potuto finire in primo. Però chiaro, anche per loro sicuramente non è stato facile affrontarmi all'inizio. Prossimo grande appuntamento in calendario dal 9 giugno al Royal Park di Torino, l'Open d'Italia. Faremo tutti il tifo per te e per Francesco Molinari. C'è una pressione in più quando si affrontano questi grandi campioni sul green di casa? Senti già che c'è un popolo del golf italiano che ti chiede sempre l'impresa. Come gestisci questa tensione? Per noi italiani l'Open Italia è sempre una gara speciale e c'è un qualcosa in più che ti spinge a volerla vincere, quindi non penso ci sarà tanta tensione, perciò vedremo cosa succederà, sicuramente sarà una bella gara. Beh, anche perché niente di paragonabile ancora a quello che si è scatenato nel mondo anglosassone per te, no? Insomma, essere definito ragazzo meraviglia dal Times non è cosa da tutti i giorni. Beh, sicuramente un po' in tutto il mondo, a parte in Italia si sta conoscendo il mio nome, ma per fortuna, perché comunque sto giocando bene, è il primo anno, ho passato solo poco più di un anno da professionista e quindi il mio nome adesso sta iniziando a un po' a girare adesso, però spero di continuare ad andare avanti così e fare meglio. Nel frattempo, a proposito del tuo nome, hai scelto di legare il tuo nome a Fondazione Laureus, diventando Friend Ambassador della fondazione che fa del legame tra sport e solidarietà il suo emblema. Ecco, qual è la lezione che arriva dal golf in questo senso? Sport di lealtà estrema e di rispetto estremo delle regole dell'avversario, direi, no? Sì, bella. Diciamo che il desiderio di avvicinarsi alla Fondazione Laureus è stato un po' il mio desiderio, mi è stato chiesto e ho accettato subito, perché ovviamente lo sport è il modo migliore per fare beneficenza, come molti pensano, e lo penso anch'io, però essere legato a una fondazione così importante è una cosa molto bella per me. E dopodiché si sposa benissimo col golf, assolutamente, perché comunque è uno sport molto molto dal regime delle regole, del rispetto dell'avversario, molto importante, quindi anche della beneficenza e del rispetto di tutte le persone. Direi che questo è anche un legame forte, quello tra te e Laureus, con un altro grande campione che aveva una grandissima ammirazione per te e ha fatto giusto in tempo a farti i migliori auguri per la tua carriera e per i tuoi 18 anni, e faccio riferimento al grandissimo, certo, Severiano Ballesteros, no? Certo, sì. Più che lui, grande ammirazione per me, che spero ce l'avesse, sono io che insomma ho avuto un'ammirazione speciale per lui, e l'ho sempre visto come una persona speciale, un golfista speciale, diverso da tutti quelli che erano gli altri, anche vincenti, però lui è stato sicuramente un qualcosa di unico. Ecco, qual è la dote che più cerchi di catturare da quella che è stata la grande lezione di uomo di sport di Ballesteros? La passione che aveva, il cuore che aveva quando giocava a golf, e la passione che dimostrava proprio anche solo sorridendo, camminando, esultando in tutti gli ambiti. Il mio gioco non si assomiglierà mai a lui, però se la cambierà anche sarà anche un decimo di quella che aveva lui, avrò raggiunto un grande traguardo. Come ci si sente a essere un po' l'ambasciatore degli italiani della nuova generazione? Devo dire che il tuo nome, accostato a quello di un altro enfant prodigio, anche se caratterialmente molto diverso, Mario Balotelli, vi ha reso un po' gli ambasciatori degli italiani che saranno, no? Da questo punto di vista senti anche questa responsabilità quando scendi sul green? Dal punto di vista golfistico sì, devo dire che io, Edoardo e Francesco stiamo migliorando la situazione in golf in Italia, perché c'è più interesse, ci sono più ragazzi che approcciano il golf e le cose stanno migliorando, non c'è dubbio. La federazione adesso deve riuscire, venendo dietro a questi risultati, a creare una gestione migliore dei ragazzi che nascono e che crescono in Italia come giocatori di golf. So che sei milanista. A proposito di Balotelli, credi che il rossonero gli donerebbe? Ti piacerebbe vederlo in rossonero prima o poi? Non lo so, sinceramente. In questo momento il Milan va molto bene così com'è e sta giocando benissimo. Balotelli mi sembra che voglia rimanere in Inghilterra, però non credo che in un futuro sarà il Milan. Da uno sport come il tuo, che fa del sangue freddo la dote per eccellenza, ti senti di dargli un consiglio, quantomeno per rimanere sulla retta via, per diventare un campione con la C maiuscola? Io ho sempre ascoltato le persone che stavano in fianco a me, quelli di cui mi fidavo di più. Ascoltare le persone e avere le persone giuste in fianco è la cosa più importante. Non so se lui le ha o se le ha trovate, le sta trovando, però sicuramente lo aiuterebbero. Senti, tra l'altro, rimanendo sempre sul campo di calcio, anche coi fratelli Molinari fate un bel trofeo Birra Moretti, perché sì. Francesco è interista, Edoardo Juventino, tu sì. Milanista, ma ogni tanto ci scappa qualche quest'anno ho vinto io. Quest'anno insomma hanno pagato la birra loro. Quest'anno ho vinto io, per un annetto adesso posso prenderli un po' in giro. Allora, Matteo Manassero, intanto grazie per essere stato nostro ospite proprio alla vigilia dell'Open d'Italia. Matteo, ti lasciamo con l'in bocca al lupo inevitabile per la sfida del Royal Park di Torino, e poi ti chiediamo anche un desiderio. Qual è il colpo che sogni di mettere a segno su quel green fantastico? L'ultimo putt per vincere di un colpo. Benissimo, risposta esatta allora. In bocca al lupo, grazie. E buon green. Grazie. Per a bordo campo di oggi è tutto, un grazie a Mauro De Angeli in regia. Vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo abordocampo@radio24.it, riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e dialogare con noi attraverso il nostro blog, sempre sul nostro sito. L'appuntamento è per domenica prossima alle 14.30 e il sabato mattina in replica alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.